Ciao a tutti, io sono Luigi, sono un precario e sono uno studente e attualmente il rapporto lavorativo si è interrotto perché c'è l'emergenza coronavirus e ovviamente si è creato un problema che è abbastanza importante, visto che comunque quella parte di lavoro mi aiutava, diciamo, nel sostentamento qui a livello di necessità e a livello anche dello studio. Andrò a leggere il canto quindicesimo dell'Inferno di Dante e spero vi piaccia. Ora c'è in porta lunghe duri margini e il fumo del ruscello di sopra duccia, sì che dal fuoco salva l'acqua e gli argini. Quali fiamminghi traguizzante bruggia, temendo il fiotto che inver lor s'avventa, fanno lo schermo perché il mar si fuccia. E quali paduan lungo la brenta per difenderlo ville e lor castelli, anziché Carentana il caldo senta. A tal imagine erano fatti quelli, tutto che né sì alti né sì grossi, qual che si fosse lo maestro Felli. Già eravamo dalla selva rimossi, tanto ch'i non avrei visto dov'era, perch'io indietro irvolto mi fossi, quando incontrammo d'anime una schiera che venian lungo l'argine, e ciascuna ci guardava come suol da sera guardare uno altro sotto nuova luna, e si ver noi aguzzavan le ciglia come il vecchio sartor fa nella cruna. Così adocchiato da cotal famiglia fui conosciuto da un che mi prese per lo lembo e gridò: qual maraviglia! E io, quando il suo braccio a me distese, ficcai gli occhi per lo cotto aspetto, sì che il viso abbruciato non difese la conoscenza sua al mio intelletto, e chinando la mano alla sua faccia risposi: siete voi qui, ser brunetto? E quelli: o figliuol mio, non ti dispiaccia se brunetto latino un poco teco ritorna indietro e lascia andar la traccia. E dissi lui: quanto posso ven prego, e se volete che con voi m'asseccia farò se piace a costui che vo seco. O figliuol, disse, qual di questa greggia s'arresta punto giace poi 100 anni, senza arrostarsi quando il fuoco il feggia? Però va oltre, i ti verrò a panni. E poi giugnerò la mia masnada, che va piangendo i suoi eterni danni. Io non osava scendere della strada per andar par di lui, ma il capo chino tenea comon che reverente vada. E il cominciò: qual fortuna o destino, anzi l'ultimo dì qua giù ti mena, e chi è questi che mostra il cammino? Lassù di sopra, in la vita serena, rispose lui, mi smarrì in una valle, avanti che l'età mia fosse piena. Pur ier mattina levossi le spalle, questi m'apparve, tornando io in quella, e riducemi a ca per questo calle. Ed egli a me, se tu sei aiuto a stella, non puoi fallire a glorioso porto, se ben m'accorsi nella vita bella. E se io non fossi sì per tempo morto, veggendo il cielo a te così benigno, dato t'avrei all'opera conforto. Ma quell'ingrato popolo maligno che discese di Fiesole ab antico e tiene ancor del monte e del macigno, ti si farà, per tuo ben far, nemico. Ed è ragion che tra li lazzi sorbi si disconvien fruttare al dolce fico. Vecchia fama nel mondo li chiama orbi, gente avara, invidiosa e superba, dai lor costumi fa che tu ti forbi. La tua fortuna tanto onor ti serba, che l'una parte e l'altra vanno fame di te, ma lungi fia dal becco l'erba. Facciano in bestie fiesolane strame di lor medesme, e non tocchin la pianta s'alcuna sorge ancora in lor letame, in cui riviva la sementa santa di quei roman che vi rimaser quando fu fatto il nido di malizia tanta. Se fosse tutto pieno il mio dimando, rispose lui, voi non sareste ancora dell'umana natura posto in bando, che in la mente mi fitta e or m'accora la cara e buona immagine paterna, di voi quando nel mondo ad ora mi insegnavate come l'uom s'eterna, e quant'io l'abbia in grado mentre io vivo, convien che nella mia lingua si scerna. Ciò che narrate di mio corso scrivo, e serbo la chiosar con altro testo a donna che saprà, sa lei arrivo. Tanto voglio io che vi sia manifesto purché mia coscienza non mi garra, ch'a la fortuna come vuol son presto. Non è nuova agli orecchi miei talarra, però giri fortuna la sua ruota, come le piace, e il villan la sua marra. Lo mio maestro allora in sulla gota destra si volse indietro e riguardommi, poi disse: bene ascolta chi la nota. Né pertanto di men parlando vommi con ser brunetto, e dimando chi sono li suoi compagni più nuti e più sommi. Ed egli a me, saper d'alcuno è buono, di l'altri fia laudabile tacerci, che il tempo sarà corto a tanto suono. Insomma sappi che tutti fuorcherci e letterati grandi e di gran fama, d'un peccato medesmo al mondo lerci. Priscian se ne va con quella turba grama, e Francesco d'accorso anche, e vedervi. S'avessi avuto di tal tigna brama, colui potei che dal servo dei servi fu trasmutato d'arno in bacchiglione, dove lasciò li mal protesi nervi. Di più direi, ma il venire il sermone più lungo esser non può, per chi veggio l'assurge il nuovo fummo del sabbione. Gente vien con la quale esser non deggio, sieti raccomandato il mio tesoro, nel quale io vivo ancora e più non cheggio. Poi si rivolse e parve di coloro che corrono a Verona il drappo verde per la campagna, e parve di costoro quelli che vince, non colui che perde.